La borsa della spesa. La notizia è di pochi giorni fa. Eastman Kodak, la multinazionale della fotografia, ha presentato richiesta per il cosiddetto Chapter 11, la procedura che in America regola la bancarotta assistita. Fondata 131 anni fa, l'azienda, che conta 19.000 dipendenti, fino agli anni 80 pensate erano 145.000, non ha resistito alla fine della pellicola analogica e alla rivoluzione tecnologica che questo ha comportato. Non è riuscita a riorientare la propria attività. Nel 1976 il 90% delle pellicole e l'85% delle macchine fotografiche vendute negli Stati Uniti erano Kodak. Fino agli anni 90 era considerata una delle marche di maggiore valore al mondo. Poi sono arrivate le macchine fotografiche digitali e gli smartphone, i telefonini intelligenti che fanno di tutto, incluso fotografare. È dei giorni scorsi la notizia che l'iPhone 4 è diventato lo strumento più usato per scattare fotografie. Dunque anche le macchine fotografiche digitali, prepariamoci, sono destinate a imboccare il viale del tramonto. Che cosa significa tutto questo per il mondo della fotografia? Lo abbiamo chiesto a Roberto Koch, presidente della Fondazione Forma per la Fotografia, direttore della storica agenzia e casa editrice Contrasto. Certo, è un crollo di un mito, chiaramente. La Kodak per tutti i fotografi è quella che in qualche modo ha accompagnato la diffusione popolare della fotografia. All'inizio è storico lo slogan, voi premete il bottone e tutto il resto pensiamo noi della Kodak. È un segno anche dei tempi, è un'evoluzione inevitabile. A me quello che sorprende è che nell'evoluzione così forsennata, così importante, digitale, tecnologica, la Kodak è stata una delle prime ad avere, diciamo, innovato con il fotodisco, con una serie di possibilità tecnologiche negli anni 90, diciamo la digitalizzazione delle immagini, ora si ritrova in una situazione in cui di fatto non è più in grado di competere. È un crollo di un mito anche dal punto di vista del sogno. La Kodachrome è stata una pellicola addirittura celebrata in una famosa canzone di Simon & Garfunkel, quindi insomma è un insieme di sogni e di ricordi che in qualche maniera vanno a svanire.